9 in punto. Buongiorno da Gianfranco Fabi, buongiorno. Oggi parliamo di economia reale. Abbiamo parlato tanto di politica nei GR, nella puntata speciale di Bianco e Nero con Alessandro Milan poco fa. È sempre aperto il sondaggio, se ritenete che Fini deve lasciare il PDL potete votare sul sito radio24.it. Ma oggi in quest'ora vogliamo parlare di economia reale, di produzione, di lavoro, di futuro dell'Italia, e lo facciamo prendendo spunto dal Nord-Est, dalla realtà del Nord-Est, una realtà di regioni come il Trentino, il Veneto, il Friuli, il Venezia Giulia, che è stata considerata in passato un po' un modello della via italiana alla crescita, della via italiana allo sviluppo, e lo stato per molti anni un modello che adesso sta cercando anche di ritrovare degli spunti per crescere, degli spunti per riprendersi, degli spunti per cambiare, come è necessario cambiare in un mondo di grandi cambiamenti, di grandi evoluzioni, in un mondo di globalizzazione. In questi giorni nelle città del Nord-Est si sta svolgendo un confronto aperto che ha come leitmotiv quello della cultura. La cultura ci fa ricchi, questo è lo slogan del Festival delle Città Impresa, con grandi incontri in molte realtà piccole e grandi, appunto del Nord-Est, in cui si confronta su queste ipotesi di lavoro, come integrare in fondo la realtà delle idee, il valore delle idee, il valore della cultura con il valore invece della manifattura, che non è qualcosa di staccato, che però è molto legato al lavoro, alla produzione. Sono queste in fondo le provocazioni, le sfide che il Nord-Est vuole raccogliere. Sono sfide in fondo per tutto il paese, un paese che deve cercare di riqualificare la propria industria, di affrontare vincendo sul fronte della qualità quelle che sono i contrasti, appunto i confronti con un mondo sempre più in crescita in cui ci sono grandi opportunità, ma come hanno insegnato anche gli ultimi mesi ci sono anche sfide molto profonde e difficoltà molto, molto grandi. Io ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24 per le vostre chiamate, il 349 238 6666 per i messaggi SMS, e vorrei cominciare proprio guardando al Nord-Est, come è cambiato in questi ultimi anni, con il primo dei nostri ospiti, Claudio Pasqualetto. Buongiorno Claudio. Buongiorno direttore, buongiorno Claudio, agli ascoltatori. Claudio Pasqualetto è giornalista, storico corrispondente dal Nord-Est del Sole 24 Ore. Allora, prima di presentare gli altri ospiti, poche battute da Claudio Pasqualetto. Come è cambiato secondo te il Nord-Est in questi ultimi 10 o anche 20 anni? Ma diciamo che negli ultimi 10 anni è stato in marcia, o meglio, negli ultimi 5 anni ha fatto una marcia di consolidamento. Nei 15 anni precedenti ha galoppato, si è parlato non a caso della locomotiva Nord-Est, eccetera. Poi a un certo punto questa locomotiva ha cominciato a rallentare, ma era un processo anche fisiologico il rallentamento, ed è cominciato il processo di consolidamento. Ed è in questo processo di consolidamento che è arrivata la crisi che ha sorpreso molte aziende, come si è detto più volte, a metà del guado, cioè proprio mentre erano impegnate a fare un cambiamento epocale. Un cambiamento che, tanto per non andare lontano dal tema del Festival delle Città d'Impresa, è prima di tutto un cambiamento culturale, nel senso che si è passato, tu sai che gli ascoltatori sapranno, ricorderanno che in quest'area la stragrande maggioranza di imprese intanto sono piccole, piccolissime, qualche rara azienda media, pochissime le grandi. E si ricorderà anche che sono in gran parte aziende di prima generazione, cioè ancora in mano ai loro fondatori. Per cui i problemi sono quelli tipici di queste aziende: il passaggio generazionale, la crescita dimensionale, un cambio di cultura generale. Ecco, proprio nel mentre questo gruppo di imprese, questo tessuto economico stava effettuando questo cambiamento, è arrivata la crisi. Qualcuno è rimasto spiazzato perché era meno attrezzato di altri. Altri sono riusciti a lanciare il cuore oltre l'ostacolo, diciamo, e a completare il percorso che avevano avviato, altri sono un po' a metà strada e si stanno interrogando sul da farsi. Questa è la situazione di oggi, però va anche detto che, come sempre, alla base del successo, di quello che si ritiene un successo di questo modello del Nord-Est, c'è anche prima di tutto una grande attenzione per il lavoro, una grande disponibilità a lavorare. In secondo luogo anche un forte impegno sia sul fronte internazionale, sui mercati mondiali, globali, che hanno visto da sempre protagoniste le imprese di quest'area, sia anche l'attenzione, la curiosità, la creatività, l'ingegno che un po' sono le cose che si trovano e che fanno importante le aziende di quest'area. Grazie Pasqualetto. Allora, un'area che sta cercando una nuova strada, senza ovviamente abbandonare quello che di positivo c'era stato nel passato, che ha fatto da traino alla crescita, ma cercando anche nuovi spunti, nuove capacità di affrontare la competizione internazionale. Allora vorrei coinvolgere due professori che osservano da vicino la realtà del Nord-Est, il professor Enzo Rullani. Buongiorno professor Rullani. Buongiorno direttore. Che è presidente del comitato scientifico del Festival delle Città Imprese e docente di economia all'Università di Venezia, e Pierluigi Sacco. Buongiorno professor Sacco. Buongiorno direttore. Pierluigi Sacco è ordinario di politica economica, anche lui all'Università di Venezia. Io comincerei da professor Rullani, un grande osservatore delle politiche industriali, dell'industria, delle trasformazioni industriali. Pasqualetto ha parlato di un traghettamento, il Nord-Est sta cercando di superare un po' le difficoltà, questo grande fiume della crisi globale, e cercando di arrivare a una nuova sponda. A che punto siamo di questa trasformazione, professor Rullani? Ma direi che siamo a metà del guado, come diceva prima Pasqualetto, però il punto importante è qual è la nuova sponda, perché durante la crisi è diffusa un po' la concezione che bisogna tornare indietro, c'è una certa nostalgia, insomma, no? Cioè, come eravamo prima funzionava meglio, era meno immateriale, era più basato sui valori personali, umani, eccetera. Ora tutto questo va portato traghettandolo sulla nuova sponda, ma la nuova sponda noi sappiamo già come sarà. Sarà più globale e più immateriale, non sarà un tornare indietro, ed è questa la grande sfida della cultura. La cultura deve ridecifrare la storia per portarla su questo nuovo mondo che davanti a noi sappiamo come sarà, ma che è diverso dalla sensibilità, dagli uomini, dal modo di pensare. Pensiamo solo questo, che la gran parte dell'imprenditoria del Nord-Est ha sostanzialmente investito la sua attenzione e i suoi soldi nella fabbrica, nelle macchine, nella produzione materiale, nell'artigianato, come dire, di qualità. Ecco, il nuovo mondo implica invece che tu devi essere bravo a vendere le idee, naturalmente legate al mestiere, però la prima cosa è devi avere delle nuove idee, quindi questa è la smaterializzazione del valore. Ecco, ma professor Rullani, anche il nuovo mondo, i grandi mercati hanno bisogno ancora di sedie, di frigoriferi, di coperte di lana, di motorini, tutte queste produzioni, in fondo ho citato alcune realtà di grandi imprese del Nord-Est. E non c'è un futuro per queste grandi imprese? Certamente, hanno bisogno di beni materiali, ma non facciamoci illusione, se il bene materiale è standard e si fa a macchina principalmente, ci sarà chi lo fa a costi inferiori di noi. Noi dobbiamo fare i motorini, ma con un'idea in più. E quindi il vero valore aggiunto degli uomini di cui abbiamo bisogno è che ci mettano nel motorino, nel contesto, nei servizi, nelle idee, nell'identità del motorino, ci mettano qualcosa in più che il cinese, il turco, il russo, il polacco non riescono a metterci. E allora noi dobbiamo in qualche modo riscrivere il nostro vantaggio competitivo. Noi fino adesso abbiamo avuto un vantaggio competitivo basato un po' sui costi, in fondo eravamo un po' i cinesi d'Europa, no? 30 anni fa, e molto basato sulla flessibilità, cioè sul dare ragione al cliente e inventarsi il modo poi di fare la cosa che lui ci chiede, che invece i grandi trascuravano. Oggi dobbiamo fare questo grande passaggio dalla flessibilità alla creatività, ecco la cultura, perché è solo la cultura che ti dà una marcia in più per spiegare al cliente quello che lui vuole entrandogli nella testa, cioè cercando di capire qual è il suo desiderio latente, qual è il tipo di mondo che lui vorrebbe, noi disegnandoglielo nella sua immaginazione, nella costruzione simbolica del prodotto, come in modo adeguato a questo desiderio di nuovo, questo desiderio di futuro che lui ha. Ecco, per noi è una grande sfida. Ecco, questa grande sfida. Allora, Pierluigi Sacco, la domanda rivolta a lei è forse un po' retorica, però è una sfida che ha delle prospettive di poter essere vinta, questa volontà di mettere insieme la produzione materiale, la cultura della manifattura, dell'artigianato di qualità, con la produzione immateriale, la produzione di idee, la produzione in fondo di conoscenza e di capacità di affrontare da un diverso profilo le sfide che ci vengono di fronte. Com'è possibile questa congiunzione tra il materiale e l'immateriale? Pierluigi Sacco. Ma questo questa congiunzione in gran parte sta già avvenendo sotto i nostri occhi. Tutti i paesi industrializzati si stanno spostando molto ad industrializzazione avanzata, naturalmente, si stanno spostando molto rapidamente verso questo nuovo tipo di scenari. Da questo punto di vista, ed è un po' singolare vista la sua tradizione storica, l'Italia, se vogliamo, è quella un po' più scettica, perché noi in realtà siamo un paese che negli ultimi anni fa un po' fatica a dare valore alle idee e dare valore al pensiero. Cioè, questa continua retorica del fare ci sta un po' rovinando, nel senso che fare è sicuramente molto importante, ma fare senza pensare molto pericoloso, soprattutto se si ha appunto a dover competere con in realtà in economie molto simili alla nostra dal punto di vista del posizionamento competitivo, ma da questo punto di vista molto più capaci di investire, di creare spazi anche proprio di crescita professionale per chi vuole lavorare, diciamo, su tutte le filiere dell'immateriale. In realtà materiale e immateriale si intrecciano continuamente nei modi più complessi e imprevedibili. Basta dire che oggi, per esempio, la moderna ricerca economica ci dice che nella testa di un consumatore che valuta un prodotto c'è molto di più tutto il mondo simbolico che è dietro questo prodotto, che è le caratteristiche del prodotto in sé. Quindi non è semplicemente un problema di comunicazione, un problema di affascinare, è proprio la capacità di costruire un prodotto con delle modalità che lo fanno percepire come qualcosa di completamente diverso dai prodotti concorrenti. Ecco, da questo punto di vista noi per molti anni siamo stati bravi, ma la formula del Made in Italy di tipo tradizionale si è ormai largamente consunta, anche e soprattutto perché è in qualche modo finito per indicare una stagione della creatività italiana, che però è finita e ha bisogno di un ciclo di rinnovamento, ha bisogno anche di una nuova ondata imprenditoriale di prima generazione. Credo che il Veneto da questo punto di vista sia ben attrezzato in realtà per rispondere a questa sfida, solo che deve cominciare a crederci davvero. Noi abbiamo in questo momento, per esempio, poche strategie per sostenere davvero l'imprenditoria creativa, che peraltro in alcuni settori, quelli che vengono poi proprio classificati ufficialmente come industrie culturali e creative, che in Europa sono trainanti, il complesso di questi settori, ricordiamolo, in Europa fattura oggi più del doppio dell'industria automobilistica, non vengono però considerati realmente strategici in Italia, nella quale si continua un po' ancora a pensare ai settori tradizionali come settori trainanti anche della nuova stagione di sviluppo. Ecco, ma professor Sacco, allora quali potrebbero essere gli incentivi, perché si parla molto di incentivi, sono attualmente stati approvati, sono attualmente sul mercato gli incentivi per le produzioni, appunto i motori nautici, ma sembrano questi esauriti, per i motorini, per le cucine. Quali possono essere gli incentivi, quindi quale può essere la politica economica che può fare un paese, che può fare un governo, che possono fare anche le regioni sotto un certo profilo per aiutare questa trasformazione, per aiutare la trasformazione delle industrie verso una maggiore competitività e anche quella che deve essere poi la congiunzione tra un'alta tecnologia e un'alta creatività, che poi mi sembra il fattore che può essere vincente. Pierluigi Sacco. Il nostro paese in realtà è anomalo nel contesto dei paesi più sviluppati soprattutto per un motivo: è un paese che produce pochi laureati ed è poco in grado di utilizzarli per, come dire, le competenze per le quali sono stati effettivamente formati. Se vogliamo diventare più creativi, la prima cosa da fare sarebbe appunto quella di fornire incentivi alle imprese, condizionandoli in qualche modo alla capacità di assorbire professioni, posizioni professionali qualificate e soprattutto nelle fasce più giovani, perché il nostro grandissimo problema in questo momento è che stiamo subendo un drenaggio impressionante di risorse umane che peraltro abbiamo formato con enorme dispendio di fondi pubblici e che di fatto regaliamo a paesi peraltro più avanzati di noi, che letteralmente, come dire, godono della rendita di posizione derivante dal fatto che sono più in grado di usare questo tipo di competenze. Allora io lavorerei soprattutto su questo aspetto, ma quello che mi sta più a cuore non è tanto l'incentivazione per le imprese che sono già sul mercato, quanto piuttosto creare una struttura di incentivi per la creazione di nuova impresa che abbia a che fare con queste nuove competenze. Questo significa soprattutto in realtà agire sul lato del credito, perché oggi in Italia quello che è veramente difficile per un giovane imprenditore che ha delle idee ma per esempio non viene da una famiglia con tradizione imprenditoriale, è molto difficile trovare credito nella misura in cui sia semplicemente una buona idea e una buona capacità di realizzarla. Grazie professor Sacco, ovviamente restate con noi. Io vorrei, prima di concludere la prima parte di questo programma, di questa analisi del Nord-Est, ricordo peraltro il numero verde 800 24 00 24 per le vostre chiamate. Sarebbe interessante anche avere delle esperienze dirette da parte di piccoli imprenditori, artigiani, italiani, ma anche di cittadini non solo del nord-est su questa realtà. Vorrei guardare una realtà locale, a quella di Schio. Abbiamo il sindaco di Schio, Luigi Dalla Via. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Allora, vista da Schio, Schio è una realtà in cui la trasformazione è forse evidente, la grande industria, la piccola impresa, c'è un dinamismo, qualche volta anche con qualche problema, però un dinamismo che guarda molto in avanti. Come Schio vede questa trasformazione del nord-est, sindaco? Schio vede questa trasformazione del nord-est con certa fiducia, nel senso che può valersi un po' di una tradizione, di una storia industriale che è molto antica, a partire dal 700, 800, abbiamo vissuto la fase della grande industria, abbiamo avuto poi la fase della trasformazione nelle piccole e medie, adesso c'è un tessuto industriale capace, certamente soffre il momento di difficoltà, ma riesce anche a dare delle risposte importanti, perché si tratta di una serie di industrie che fanno cose diverse e quindi c'è una capacità di risposta maggiore, e ciascuno magari nella sua nicchia è punto di riferimento del mondo. Certamente le occasioni come quelle del festival, le riflessioni che faceva prima il professor Lullani e adesso il professor Sacco, sono anche riflessioni importanti, quindi il discorso della cultura, della riflessione che si fa in questi giorni durante il festival, sono elementi significativi per aiutare ciascuno di noi, anche gli imprenditori, anche i dipendenti, a capire la realtà in cui viviamo. Ieri sera, per esempio, uno degli incontri è proprio sul tema dei talenti, è stata presentata un'interessantissima indagine, una novità fatta dalla Fondazione Corazzin sui giovani veneti, se pensano dopo la laurea, dopo il percorso formativo, di fermarsi in Veneto o spostarsi, e quindi la capacità di un territorio di attrarre, perché evidentemente se c'è il tema del capitale umano, se c'è il tema dell'economia e della conoscenza, è importante avere un territorio, persone giovani preparate che investano in questo territorio, che però abbiano l'opportunità di farlo. Ecco, che cosa può fare allora un comune, che cosa può fare una realtà locale che per aiutare questi giovani a restare nella realtà locale, a rendere più viva la realtà locale? Buongiorno, bentornati da Gianfranco Fabi. Stiamo parlando, abbiamo parlato nella prima parte del programma del Nord-Est, ma dell'economia italiana, del fatto che siamo di fronte alla necessità di un cambiamento per rispondere alle sfide del mercato globale. La realtà del Nord-Est è una delle realtà più simboliche di un'industria italiana che ha saputo crescere negli ultimi decenni, crescere in maniera molto forte, e che si trova di fronte alla necessità di ripensare, di ristrutturarsi, ma non solo di ristrutturarsi, anche di porsi nuovi obiettivi. Ringrazio un ascoltatore che al 349-238-6666 ci ha scritto: complimenti, basta con la politica, parliamo di cose concrete. Grazie per i complimenti. Il problema è che la politica dovrebbe parlare di cose concrete, dovrebbe parlare dello sviluppo del paese, dovrebbe parlare dell'occupazione, di come dare occupazione e soprattutto prospettive di crescita per le imprese, cosa che si sta facendo. Se ne parla, ma se ne parla anche proprio per guardare alla realtà in questi giorni, al Festival delle Città Impresa, che si svolge in numerose città dell'area appunto veneta, da Rovereto a Schio, a Montebelluna, a Vittorio Veneto, a Altavilla Vicentina, ai comuni del Campo San Pieriese, e a Schio tra l'altro ci sono alcuni incontri proprio oggi. Questo pomeriggio si parlerà di idee per vincere la crisi, si parlerà di domani mattina di cultura della solidarietà, si parlerà anche di arte. Avevamo chiesto e abbiamo in linea il sindaco di Schio, Luigi Dalla Via, e abbiamo concluso la prima parte chiedendogli come fare per far sì che la comunità, la realtà locale sia accogliente, in modo da trattenere anche i talenti, anche i laureati che cercano appunto all'interno della realtà locale la possibilità di esprimere la loro professionalità, la loro capacità. Sindaco Dalla Via. Ieri sera emergeva proprio questo fatto: non è l'elemento fondamentale il posto di lavoro, ma è importante l'ambiente in cui si vive. Sono importantissimi i servizi, soprattutto per esempio la mobilità, il poter muoversi rapidamente. Da questo punto di vista il Veneto e il Nord-Est devono fare passi in avanti significativi, in particolare sul trasporto ferroviario, secondo me, in maniera tale che questa città diffusa che è il Nord-Est possa essere veramente una, come la chiamiamo qui, una metropoli che ha i vari quartieri connessi. Quindi certamente una capacità di dare servizi che è dovuto al territorio. negli anni 70-80 questo territorio si è sviluppato perché le varie amministrazioni hanno creato le zone industriali. Anche qui torniamo a un discorso materiale. Oggi la risposta del territorio, ecco il titolo del festival, il rapporto fra fabbrica e città, fra economia e cultura e servizi, la risposta del territorio è anche investire sulle idee. Quindi anche, non so, noi stiamo lavorando, per fare un esempio, a ristrutturare il teatro. Sembrava, ne avessimo parlato anni fa, sembrava una cosa slegata il fatto di occuparsi di cultura dal fatto di attrezzare una zona industriale. L'economia di oggi invece mette insieme queste due cose, quindi anche le amministrazioni, anche la politica, purtroppo da questo punto di vista devo per primo ammettere che non stiamo vivendo tempi felici, ma speriamo nel futuro, la politica deve riprendere a progettare il futuro e quindi le occasioni di questi giorni sono molto importanti da questo punto di vista. E anche le città, anche una città come Schio, che negli anni ha costruito un'importante zona industriale, attrezzata bene, anche tutto sommato curata bene urbanisticamente, che adesso abbiamo cercato di connetterla con la fibra ottica, adesso deve occuparsi anche di questo tipo di cose. E anche in un momento di crisi, qualcuno ci ha anche detto, perché anche organizzare un festival comporta dei costi, i costi sono sia privati che pubblici, per esempio noi mettiamo un certo investimento. Qualcuno mi chiedeva, ma è un momento di difficoltà, bisogna occuparsi delle famiglie, certamente bisogna occuparsi delle famiglie, lo facciamo, certamente bisogna occuparsi delle piccole imprese, per esempio del tema del credito, ma certamente bisogna anche in un momento di crisi, soprattutto in un momento di crisi, anche una città, un territorio deve avere la capacità, come un'impresa, come una famiglia, di investire sul futuro. Investire sul futuro vuol dire investire in occasioni di riflessione e da queste riflessioni evidentemente poi trarre anche delle azioni politiche concrete. Grazie, grazie Sindaco, grazie anche per l'autocritica che veramente ha fatto verso la politica, una politica che indubbiamente in questo momento dovrebbe dare degli esempi di concretezza, di capacità di guardare ai problemi reali del Paese e alla necessità di svolgere sia una politica economica sia l'economia politica, ci ricorda un ascoltatore al nostro 349-238-6666, ma sentiamo qualche ascoltatore. Alberto da Perugia, buongiorno. Buongiorno dottor Fabi, sì. Io volevo parlare del costo unitario del prodotto. Politica industriale, sì, rapidamente. È importantissima, grazie. Perché se non guarda, no, ma non solo industriale, anche artigianale, perché se noi altri non guardiamo questo costo, è inutile che stiamo a invitare quelli della Bocconi, bocconiani, a discutere di che? Di che cosa? Noi non abbiamo più, non siamo più qualificati a fare, a lavorare, e questo è il problema, perché se non si rende conto il grande bocconiano che il costo unitario del prodotto è, rispetto alla Cina e all'India, è 50 volte più meno caro, e vuol dire che noi altri non abbiamo capito niente. Lei, caro Alberto, ha ragione a guardare a questo, però bisogna pensare che non tutti i prodotti sono, per così dire, fungibili e uguali agli altri. Indubbiamente per la produzione di massa, per le produzioni delle t-shirt, così come delle scarpe normali, il costo unitario è certamente molto più basso in Cina. Il problema per l'industria italiana è quello di trovare dei prodotti nuovi, di puntare sulla qualità, sul design, sulla creatività, sulla moda, e quindi in cui il fattore prezzo possa passare in secondo piano, se no indubbiamente, e chiederei conferma al professor Rullani, penso che non ci sia gioco se vogliamo solo badare al fattore prezzo. Professor Rullani. Sì, ma in fondo non dobbiamo vivere in modo difensivo la trasformazione che c'è, pensiamo solo a questo, se noi andiamo in negozio e compriamo un paio di jeans di una marca così affermata, li paghiamo, mettiamo 150 euro, sebbene al mercato poi si trovano dei jeans di origine cinese a 20 euro, però noi li paghiamo 150 euro. Quando quei jeans sono usciti dallo stabilimento, già finiti, con tutti i loro strappetti al punto giusto, quelli valgono 15 euro. Allora l'economia di oggi è l'economia dei 15 euro in cui noi perderemo comunque con tutti questi paesi emergenti, o è l'economia dei 135 che si aggiungono? E guardate che ormai nella gran parte dei prodotti, lo diceva prima Sacco, il valore va in mano non a chi fa la manifattura fisica del prodotto, ma chi ne fa il progetto, chi ne fa il rapporto col consumatore. Pensiamo anche per esempio all'iPhone di Apple. Apple mica fa la manifattura della sua cosa, Apple fa l'idea, fa la relazione col mercato, fa il marchio. Una gran parte delle ragioni per cui i nostri prodotti oggi sono in difficoltà è che le aziende, anche gli artigiani, non hanno fatto i marchi. non hanno investito abbastanza soldi per farsi riconoscere, contando sul fatto che il loro committente li conosce, sta lì vicino. Ma se il committente sta in Germania o sta in Giappone, non ti conosce mica, hai bisogno del marchio. Ecco, in questo senso, professor Rullani, in questo senso qualche esempio positivo, possiamo fare anche dei nomi. La Geox, per esempio, è un marchio che è nato e cresciuto nel nord-est, che si è sviluppato anche attraverso produzioni esterne, ma che ha creato questa realtà di ingegnerizzazione del prodotto. È basato su un'idea, non è basato sul lavorare. La Geox fa pochissime lavorazioni, è un'azienda terziaria, diciamo così, tra virgolette, cioè mette l'idea, la scarpa che respira, insomma, la conoscono tutti, e mette soprattutto la parte commerciale. Ora, la gran parte, diciamo, del valore si fa in questa parte, chiamiamola terziaria commerciale, che però ha bisogno di una manifattura reattiva. Quindi non è che noi dobbiamo fare a meno della manifattura, è che dobbiamo pensare che la manifattura serve e si difende anche in termini di costi e di valore se fa delle cose che il cinese non fa. Questo è il punto chiave. Non possiamo combattere col cinese, diciamo così, facendo delle cose che si fanno a macchina, che anche lui compra la stessa macchina nostra, abbiamo già perso. Grazie professor Rullani. Io sentirei anche una realtà oltre a quella del nord-est, una testimonianza da Prato. Claudio, buongiorno. Devo dire, direttore, che mi cascano abbastanza le braccia. Perché qui veramente viviamo in una realtà virtuale, in una realtà reale. Il problema mi sembra molto diverso. La nicchia non dà da mangiare a tutti, risponde il professor Rollani. La nicchia è un qualche cosa che esiste, perché esiste una imprenditorialità diffusa, e che per sopravvivere ha bisogno di un'imprenditorialità diffusa. Ma l'imprenditorialità diffusa è basata sul prezzo, professore, non sulla qualità. Quindi già direi che siamo un attimino agli antipodi nel discorso, però il problema che li sottopongo è completamente diverso. Quindi a mio giudizio è l'ora di farla finita, di piantarla con questi discorsi puramente localistici. La globalizzazione ci pone un problema globale che si risolve in maniera globale, cioè tramite in primis l'Europa. Se l'Europa continua a privilegiare, rispondo anche qui al professor Rollani, il capo a 20 euro nei grandi magazzini, perché questi consentano questi prezzi alla grande distribuzione del nord di guadagnare, lei è fuori mondo. Ma lei vorrebbe il protezionismo? No, io vorrei ridiscutere completamente i rapporti produttivi. No, scusa, cosa vuol dire? Ridiscutere completamente vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo avere ben chiaro che non abbiamo la capacità, se non c'è un discorso politico, di competere al discorso puramente prezzo. Quindi, che vogliamo o non lo vogliamo, dobbiamo fare un discorso che a quanto pare è completamente estraneo, non ascolto mai. Cioè, il punto fondamentale, noi dobbiamo far alzare i costi del lavoro da loro, perché devono diventare loro seriamente i consumatori dei nostri prodotti, non dei suoi. Beh, mi scusi Claudio, perdona di dilungarsi troppo, mi sembra che comunque questa dinamica stia avvenendo. La Cina sta diventando da grande paese esportatore anche grande paese importatore, e il fatto che di questa apertura dei mercati sta creando anche un grande mercato cinese. Quindi non possiamo dichiarare guerra alla Cina. Indubbiamente la politica deve avere il suo fronte, deve avere le sue responsabilità, e qualcosa si sta facendo, ma non si può imporre delle cose agli altri, non si possono in questa fase, sarebbe controproducente innalzare delle barriere. Indubbiamente l'esigenza che la globalizzazione diventi una globalizzazione per tutti, e quindi ci siano realtà, e quindi anche rispetto dei diritti umani, ma anche diritti sindacali, diritti di un'equa retribuzione dappertutto, mi sembra corretta, ma bisogna farla con un dinamismo, con le corrette pressioni, e soprattutto cercando di far crescere tutti, e quindi affrontando anche i temi locali, non solo i temi globali, non sempre demandando ad altri. Sentirei rapidamente un altro ascoltatore, Giuseppe da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie dell'ospitalità. Io porto la mia testimonianza, sono un rappresentante nel settore dei metalli e giro la provincia di Padova e quella di Vicenza, e sono a contatto con diverse realtà imprenditoriali, dalle più piccole ad alcune realtà anche medie e grandi. A mio avviso, tornando al discorso iniziale, quello della sfida che va colta, mi pare che si colga per l'ennesima volta un punto fondamentale che vedo come un limite in questa realtà, e cioè quello che si fa fatica notevolmente a fare la transizione generazionale da chi ha fondato le società, le industrie e le ditte alla seconda generazione. Dov'è il limite in questo, secondo me? si fa molta fatica a capire che chi ha avuto lo spunto iniziale perché conosceva il lavoro, perché si comprava il suo tornio, perché avviava una piccola ditta, non può essere in questa fase di mercato la stessa persona che gestisce la come dire, transumanza verso la globalizzazione. Si fa molta fatica a comprendere che chi detiene il capitale di una ditta, chi ne è proprietario, come succede nelle organizzazioni industriali più avanzate, dovrebbe fare un passo indietro e delegare a dei manager che, e torno alla scuola, hanno studiato per quello, la gestione industriale. All'interno delle famiglie proprietarie delle ditte non è detto si trovi chi è capace, quasi mai lo è, di gestire un'azienda. Grazie Giuseppe per questa testimonianza. Indubbiamente il problema del passaggio generazionale è un problema aperto. Secondo me non bisogna imporre o avere degli schemi. C'è azienda e azienda, c'è famiglia e famiglia, c'è responsabilità e responsabilità. Ci sono aziende che sono cresciute anche attraverso il passaggio generazionale da genitori ai figli, dai nonni ai nipoti, altri che hanno richiesto l'intervento di manager esterni e che hanno dato anche il loro apporto positivo. Ma la responsabilità dell'imprenditore, secondo me, deve restare centrale. Bentornati a 9 in punto, stiamo parlando di Nord-Est, ma soprattutto stiamo parlando delle prospettive dell'industria italiana, del manifatturiero. Il Nord-Est è stato per anni un traino, come un simbolo anche dell'economia italiana. Alberto da Monza, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Grazie per la possibilità. Ma guardi, la mia opinione banalmente è questa: il vero problema nostro italiano in generale è che le imprese sono tendenzialmente troppo piccole, quindi sono troppo piccole, hanno masse critiche di fatturato troppo piccole, e con la compressione dei margini di oggi, alla fine dell'anno, no, praticamente, detta in soldoni, non resta nel cassetto nulla, né da investire in ricerca né da investire in personale qualificato. Il Triveneto in generale è stato negli anni 80 fino agli inizi anni 90 praticamente una società praticamente solo di terzisti del mercato tedesco, grazie alla convenienza col marco. Una volta che si è entrati nell'euro, praticamente il terzista del tedesco è diventato l'est Europa e tutto il sud-est asiatico. Il problema è che noi siamo troppo piccoli. Oggi, se mia personale opinione, se una società non ha un fatturato di 40-50 milioni di euro all'anno, alla fine non c'è più soddisfazione e convenienza a fare impresa. Purtroppo è così. Grazie Alberto. Indubbiamente una società per diventare grande può anche nascere piccola. Il problema è di permettere alle aziende piccole di crescere, di svilupparsi, di avere anche, di superare anche queste soglie di fatturato. Ma sentirei Enzo Rullani, professor Rullani. Ma direi che da questo punto di vista il problema della dimensione va molto ridimensionato, come si può dire. Cioè, una volta questo discorso del fatto che l'unica cosa che conta è la dimensione era nell'economia fordista una specie di teorema convalidato dai fatti. Noi in realtà sono ormai tanti anni in cui la parte nuova dell'economia nasce dai piccoli, come diceva Fabio prima. Cioè, se noi prendiamo tutta la parte dell'elettronica, Google, Microsoft, sono tutti nati nel garage. Quindi dobbiamo stare attenti a considerare la piccola dimensione come una cosa da abbandonare, da perdere, insomma, la parte perdente. Ci sono le reti, cioè questi piccoli lavorano in reti, lavorano in filiere, sono specializzati. Naturalmente c'è chi fa delle cose su fornitura pura e quindi è sempre più in difficoltà, ma c'è chi in questo ci mette delle idee, no? E da questo punto di vista il piccolo deve essere capace, questa credo sia la sfida, di cambiare il suo modello di business. Per esempio l'ascoltatore di Prato prima, no? Ci portava un modello di business di successo che fino agli anni, fino al 2000 diciamo, andava bene, ma oggi non va più bene, e Prato è in qualche modo bloccata dal suo successo precedente su un modello di business perdente, perché è successo che il valore nell'abbigliamento, il valore si è spostato a valle, cioè si è spostato sulla confezione, sulla commercializzazione, sul rapporto con il cliente finale, ed è chi gestisce queste pezze della filiera che guadagna. Se tu non ti lasci sfuggire questa trasformazione e consideri che invece resti sul prodotto intermedio, è chiaro che farai solo concorrenza di prezzo, è chiaro che ti troverai in difficoltà. Allora bisogna che il prodotto intermedio, chi fa il tessuto, faccia un tessuto in sintonia, in sinergia con quelli che stanno a valle, cercando i legami per catturare questa parte, come dire, nobile della filiera. Ma io credo che il Nord-Est, ma anche l'Italia un po' in generale, ce la possono fare in questa trasformazione, perché in fondo noi abbiamo un patrimonio di imprenditorialità molto vasto, che non ha nessun paese. quello che abbiamo bisogno, diciamo, è quello di che questa imprenditorialità non sia solo pratica, ma sia anche concettuale, culturalizzata, abbia un maggiore investimento in capitale umano, diciamo. Però abbiamo anche bisogno, oltre a questa imprenditorialità di tipo nuovo, che non è solo giovani, no, ma è anche, come dire, cambiare il modello di business, le idee che si portano avanti nel proprio mercato. Abbiamo anche bisogno di uno sforzo finanziario, perché dobbiamo renderci conto che noi fino adesso le nostre aziende sono nate con pochissimo investimento di capitale. Questo ha fatto sì che tanti imprenditori nascessero, ma che queste aziende siano fragili dal punto di vista degli investimenti da fare. Pensiamo a quanto costa fare un marchio, pensiamo a quanto costa fare un'agenzia che ti vende le cose un po' lontano, che so, in Russia o nel Medio Oriente. Allora, tutto questo, questa trasformazione implica un problema di sistema, non di singola azienda, cioè è il nostro sistema che deve portare i soldi dei risparmiatori alle aziende sotto forma di capitale di rischio. Queste aziende devono trovare più soci e magari non li troveranno in borsa, ovviamente, perché sono piccole, ma li possono trovare tra i concorrenti, tra i fornitori, tra i committenti, tra la banca locale. Cioè c'è da ripensare anche l'aspetto, come dire, societario e finanziario del nostro capitalismo. Cioè convincere un po' il sistema finanziario a finanziare non solo i capannoni, ma anche e soprattutto le idee, in fondo. Proprio così. Pierluigi Sacco, dal suo punto di vista, il modello Nord-Est che cosa potrà essere tra qualche anno? Ma io vedo in realtà un modello Nord-Est in pieno sviluppo, perché la componente più dinamica di questo territorio ha capito da tempo che si deve spostare sul piano delle idee. Ci sono pezzi di questo territorio che si stanno muovendo in questa direzione. Io credo che in questo modello, se si riuscirà a realizzare un'integrazione strategica tra quello che oggi si fa e le forze creative che pure ci sono, perché devo dire nella nuova generazione creativa italiana dal Nord-Est vengono molte delle individualità più significative, ecco, io credo che se questa transizione la si riesce a compiere, davvero il Nord-Est tornerà a essere un po' uno dei territori trainanti del nostro sistema. Vorrei soprattutto sottolineare come sia importante da questo punto di vista ritornare anche un po' a credere nelle idee. Sentivo anche gli interventi prima degli ascoltatori, nella maggior parte dei casi, come dire, molto difensivi, molto spaventati. Io lo capisco, questo è un momento difficile per le persone, spesso si tratta anche, come dire, di far quadrare dei conti difficili da far quadrare, però è anche evidente che se noi in questo momento non riusciamo a guardare avanti, non riusciamo ad avere il coraggio di abbandonare modelli di comportamento vecchi che si sono rivelati superati per sperimentare il nuovo, ma ci arrocchiamo nelle nostre convinzioni che spesso vengono da esperienze che hanno più di 20 o 30 anni e nel frattempo il mondo è cambiato, beh, allora sì che rischiamo davvero di rimanere indietro definitivamente. Cercare di affrontare il nuovo. Io vorrei concludere ringraziando il professor Enzo Rullani e il professor Pierluigi Sacco con Claudio Pasqualetto, corrispondente del Sole 24 Ore dal Nord-Est. Guardando e camminando un po' tra la gente, c'è fiducia nella possibilità di affrontare appunto queste sfide nuove e di mantenere alta quella prospettiva di crescita, di poter costruire qualcosa, di poter realizzare anche attraverso appunto una valorizzazione della grande cultura del passato. In fondo non dimentichiamo, Venezia è nel Nord-Est, Verona è nel Nord-Est, Trieste, tutte queste città che sono grandi centri di cultura, di saper valorizzare insieme la cultura e l'industria, la capacità di avere fiducia appunto di progettare e la capacità anche di realizzare. Claudio Pasqualetto. Sì, direttore, io direi che sicuramente c'è fiducia, ma più che fiducia direi c'è la volontà assoluta di non mollare. Io vorrei chiudere con, se mi dai proprio telegraficamente, con tre storie emblematiche su tutto quello che si è detto fino adesso. Partiamo da Benetton, caso simbolo. Ieri Luciano Benetton, a margine dell'assemblea, ha detto più o meno quello che è emerso adesso: non ci basta più il Made in Italy, e parla uno come Benetton, cioè non ci basta più il Made in Italy, le nostre magliette non sono competitive se continuiamo a farle così come sono fatte, creiamo delle business unit per cui portiamo la produzione sul posto dove riusciamo ad intercettare dei gusti della gente e riusciamo a produrle a prezzi più bassi e siamo più direttamente a contatto col mercato. Questo è un esempio. Altro esempio, due esempi emersi in un convegno che è stato ieri sera proprio sul venture capital e sulle nuove idee. Un fondo americano, si chiama Protostar, ha rilevato un paio d'anni fa una piccola azienda che produce plastiche nel Vicentino. ha portato, l'ha portata giusto a schio, fondando questa società che si chiama One Care. Questa produzione delle plastiche di bassissima qualità ha scelto di fare un percorso di alta qualità, ha coinvolto attraverso un percorso non impegnativo però molto ampio designer, ragazzi giovani che producessero delle idee e sono arrivati a fare un prodotto assolutamente nuovo, innovativo, che si sta imponendo molto bene sul mercato. Un telegramma sul terzo caso. Prego? Un telegramma sul terzo caso, siamo in chiusura. Terzo caso, telegrafico, H-Farm, che è questo incubatore ad alta tecnologia che sta immerso nella campagna del Trevigiano, fondato da Riccardo Donadon, cosa fa fra un paio di settimane? Porta 60 giovani italiani e un po' da tutto il mondo che hanno delle idee e li mette a confronto con chi a qualsiasi titolo può e ha voglia di investire su queste idee. Grazie, grazie Claudio Pasquale. Devono sviluppare un progetto e poi trovano i finanziamenti. Grazie Claudio Pasqualetto, ci sono appunto idee positive, esperienze positive, volontà di superare, ed è possibile superare le difficoltà, perché le grandi risorse, soprattutto umane, ci sono nel Nord-Est, così come in Italia. Grazie a Enzo Rullani, a Pierluigi Sacco, a Claudio Pasqualetto, a Luigi Dalla Via, sindaco di Schio, grazie a Filippo Reggi in regia, Alessandro Marco Turni in redazione, l'appuntamento con Oscar Giannino è per lunedì.